Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Partiamo dalla borsa, dalla cronaca di questa giornata economico-finanziaria che vedrà oggi un fronte molto italiano, come già vi hanno annunciato i nostri GR. Il fronte si chiama rimborso dei debiti che lo Stato ha nei confronti degli imprenditori. Sono 90 miliardi certificati dalla Banca d'Italia i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Il 70% sono ASL, quindi di crediti di carattere di servizi e beni di carattere sanitario, per appunto prestazioni sanitarie, ma poi c'è l'edilizia e non solo. Il 20% poi sono l'edilizia, c'è tutto il dato che poi vi racconteremo. Perché lo dico? Perché il Consiglio dei Ministri prima alle 10 doveva essere, poi slittato alle 19, poi slittato nei prossimi giorni, non si è trovato l'accordo, soprattutto diciamo la dialettica tra il ministro Grilli e il ministro Passera su come rendere attuativi i decreti, quindi fare in modo che partano questi rimborsi. Il governo Monti ha detto che 20 miliardi potrebbero essere dati quest'anno, altri 20 l'anno prossimo. L'Europa ci permette di aggiungere uno 0,5% di deficit per questi rimborsi. C'è quel famoso accordo Olli Rehn con il commissario, con il vicepresidente Tajani, Antonio Tajani, per cui non verrà considerato un deficit cattivo in senso stretto, cioè non come come la risultante della differenza tra quanto hai speso in un anno e quanto hai incassato in un anno, perché sono comunque soldi che lo Stato prima o poi deve ridare, deve dare a queste imprese. In realtà poi Tajani stesso ha fatto notare che l'80% di questi debiti che lo Stato ha è già stato contabilizzato, quindi è già presente nei deficit passati, perché in realtà a questo punto servono solo i decreti, ma che siano efficaci. È chiaro che tutti pensiamo alla stessa soluzione, ma se volessimo semplificare la vita agli imprenditori e non solo, e cioè un credito d'imposta, per cui l'imprenditore che vanta, poniamo, 2-3 milioni di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, li può scaricare sulle tasse future. Questo sarebbe un meccanismo molto lineare, non è detto che passi questo meccanismo, ci sono altri vincoli. Su questo ne parleremo poi in diretta con un imprenditore che abbiamo scelto come simbolo, ce ne sono appunto decine di migliaia purtroppo, per capire che cosa significhi poi essere pagati un anno, due anni, tre anni dopo, e addirittura avere le banche che non, anche se tu vanti un credito nei confronti della pubblica amministrazione, cioè dello Stato, che siano gli enti locali o che sia lo Stato centrale, poco cambia, le banche non ne tengono sempre in considerazione, anzi sono ancora più realiste del re, dicono ma sappiamo che quell'amministrazione paga in ritardo e a rischio fallimento, quindi non possiamo anticipare soldi o considerare che l'imprenditore comunque vanti un credito. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, dicevo, in apertura anche altre notizie di questa giornata, fermo restando che purtroppo abbiamo di nuovo notizie sugli sprechi della pubblica amministrazione e la borsa, dicevo. Perché? Perché quello che era sembrato un realizzi, prese di beneficio, come si dice in gergo, cioè sostanzialmente si va a vendere quando il mercato era cresciuto, e mi riferisco alla giornata di ieri, adesso mi sembra aver preso un'altra piega. Il calo a Milano del 2,1%, a Parigi dell'1,30%, a Francoforte dello 0,80%, a Londra dello 0,90, l'America perde mezzo punto percentuale. Chi va particolarmente male oggi, non solo le banche, ma anche Telecom Italia, perde il 5,56%. Il mondo delle telecomunicazioni ha attraversato da varie ipotesi di risico, ne parleremo. C'è attesa comunque per la Banca Centrale Europea di domani e la Banca Centrale Giapponese, questo lo dico in generale per tutte le borse. E ancora lo stallo politico pesa su spread e titoli, mi riferisco alla Popolare Emilia Romagna che perde il 5,81%, il Banco Popolare perde il 5,30%, il Monte dei Paschi perde il 4,12%, ormai è a 17 centesimi di euro per azione, UbiBanca meno 4,1%, Unicredit meno 3,80%, Popolare di Milano meno 3%. Male anche Finmeccanica meno 4,13% e Saipem meno 2,70%. L'automatica perde il 2,60% come Atlantia, è nel meno 2,5% come Intesa, San Paolo e le Generali. Chi guadagna? Parmalat l'1,30%, Diasorin lo 0,60%, Tenaris lo 0,30%. Il numero per intervenire nel programma è, come sempre, 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Oro in calo a $1,563, petrolio $96,6. Da Cipro oggi sono arrivate comunque notizie importanti, perché il Fondo Monetario contribuirà al salvataggio del sistema bancario cipriota dando 1 miliardo, però a questo punto raddoppierà dal 15 al 30% la tassa sugli interessi attivi per i depositi nelle banche di Cipro. È una delle misure previste per salvare il sistema bancario, lo ha specificato la stessa direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, confermando che in aggiunta al consolidamento di bilancio già in atto, più o meno il 5% del PIL, saranno prese misure aggiuntive per un altro 2% del PIL. Oltre all'aumentare la tassazione sugli interessi, anche l'aumento dal 10 al 12% delle imposte sulle società. E adesso il dato invece che diffonde oggi l'OCSE. L'Italia nel 2012 ha dato un taglio netto di quasi il 35% agli aiuti allo sviluppo ed è ultima tra i paesi membri del Centro per lo Sviluppo OCSE insieme alla Grecia. Lo ha riportato la stessa OCSE. Praticamente noi abbiamo dedicato alla cooperazione e allo sviluppo lo 0,13% del reddito nazionale lordo, è molto al di sotto dello 0,7% fissato dall'ONU. Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia e Lussemburgo versano invece una quota dell'1%. Noi abbiamo versato l'anno scorso in aiuti diretti allo sviluppo 2 miliardi e 600 milioni di euro contro i 4 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Del rinvio del Consiglio dei Ministri già accennavo e poi ne parleremo alle 18.10, però oggi il Presidente del Consiglio Mario Monti ha chiamato Olli Rehn, il commissario europeo all'economia, per informarlo sui contenuti del decreto e rassicurarlo che l'Italia rispetterà gli impegni a mantenere il deficit sotto la soglia del 3% del PIL. E dopo questa telefonata il commissario europeo ha preso nota di questo avanzamento positivo e ha chiesto ai suoi servizi di esaminare i termini del decreto. Era circolata ieri in un pastrocchio, insomma, di informazioni anche l'ipotesi che lo Stato, complessivamente dato, la pubblica amministrazione, per trovare questi soldi, invece che metterli semplicemente a deficit, cioè come uscita in più, volesse ricorrere a un aumento, addirittura raddoppiando l'IRPEF regionale. Questa mattina, per fortuna, ospite del programma di Radio 24 9 in punto, il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo ha escluso che vi possa essere un aumento dell'IRPEF regionale per rimborsare le imprese. Quella si tratta di una semplice posta contabile e quindi di una sorta di anticipazione data dallo Stato alle regioni, però verrà recuperata l'anno successivo sull'aumento dell'IRPEF che è stato già deciso, perché altrimenti, questa è una mia deduzione, poi deciderà il Consiglio dei Ministri, altrimenti non sarebbe stato necessario aumentare il deficit dal 2,4% al 2,9%. Quindi ho l'impressione che il Ministro Grilli abbia perfettamente ragione quando ha smentito quelle voci. E poi vi è stato un incontro tra il governo e il presidente dell'ANCI, ossia dei comuni italiani, Graziano Del Rio. E dopo l'incontro Del Rio ha detto il governo ci ha assicurato che entro fine settimana arriverà una risposta, al più tardi lunedì prossimo, da subito saranno disponibili 7 miliardi. È intervenuto anche sulla TARES, la nuova tassa sui rifiuti di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, perché insomma comporta aumenti vistosi, in alcuni casi 2-3 volte la vecchia tassa sui rifiuti, inizierà dal prossimo mese di maggio, ma i 30 centesimi in più a metro quadrato previsti verranno applicati solo da dicembre. Sentiamo Del Rio, al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Ci ha garantito il governo che entro il fine settimana, al massimo lunedì, il decreto sui pagamenti verrà fatto. Ci ha garantito appunto che verrà fatto il decreto, siamo molto soddisfatti di questo. Ci ha garantito che ci saranno 7 miliardi immediatamente disponibili per i pagamenti alle imprese e questo è un fatto molto molto rilevante. Una parte servirà anche a cofinanziare i progetti europei di questi 7 miliardi, quindi siamo felici di questo, credo vada nella direzione giusta. Il secondo elemento di positivo dell'incontro di oggi è che abbiamo ottenuto che la TARES venga, come dire, pagata solamente all'ultima rata. I comuni potranno utilizzare per i pagamenti della raccolta rifiuti le vecchie modalità fino all'ultima rata e quindi non avremo problemi di liquidità e di rifiuti per strada come avevamo denunciato, perché il governo ha accettato di poter applicare la TARES solamente all'ultima quota novembre e dicembre, dove sarà presente la sovrattassa che lo Stato incassa. Quindi i cittadini pagheranno gli 0,30 centesimi direttamente allo Stato, i 30 centesimi scusate direttamente allo Stato e non ai comuni, ma allo Stato. Sarà chiara che l'aliquota è un'aliquota statale della TARES. È stata rinviata sostanzialmente l'applicazione della TARES a dicembre. Vabbè, vediamo se almeno eviteremo le tre streghe, come abbiamo chiamate noi, cioè aumento dell'IVA, IMU e appunto c'era la TARES, tutto a giugno. Ma andiamo avanti, perché di situazione drammatica oggi ha parlato per l'economia e per il lavoro il segretario CGIL Susanna Camusso, ma anche il presidente di Confindustria Squinzi, tornando sul tema dei debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese italiane, ha detto... ci auguriamo che alla fine le ragioni delle imprese vengano riconosciute, le imprese soffrono disperatamente. Le imprese stanno soffrendo disperatamente per mancanza di credito, avete letto anche, proprio anche sui giornali di oggi, il senso di disperazione che sta affliggendo tanti imprenditori. Però c'è chi soffre, appunto, e soffre tantissimo. Io penso a un caso pazzesco, la cartiera Bormida di Murialdo, nel Savonese, lo riporta oggi il quotidiano La Stampa, 41 dipendenti devono affidarsi al sorteggio per ottenere il loro assegno di cassa integrazione. L'azienda infatti è fallita lo scorso dicembre, i lavoratori non ricevono lo stipendio da 4 mesi perché il governo non ha ancora approvato il decreto per l'attivazione di una nuova cassa integrazione straordinaria. I rappresentanti sindacali si sono rivolti alla regione, che però non ha fondi a sufficienza. La soluzione, si fa per dire soluzione, è stata quella di estrarre a sorte i nominativi di 6 dipendenti. Lo stesso assessore regionale al lavoro, Enrico Vesco, ha ammesso che potrebbero essere in serie difficoltà per coprire i pagamenti della cassa integrazione dopo il primo trimestre del 2013. E vabbè, si fa per dire. Nel frattempo, l'ex amministratore delegato di Saipem, voi direte che c'entra? Beh, se siamo in crisi, siamo tutti sulla stessa barca, allora mettiamoci d'accordo, siamo in crisi o non siamo in crisi? L'ex amministratore delegato di Saipem, Pietro Franco Tali, che si è dimesso lo scorso 5 dicembre dopo essere stato indagato per le presunte tangenti pagate dalla Saipem all'Algeria, lo scandalo Sonatrach, ha percepito comunque nel 2012 compensi per quasi 7 milioni di euro, 6 milioni 950 mila, che include una buona uscita di 3 milioni di 800 mila euro a titolo di TFR e incentivazione all'esodo per la risoluzione del rapporto di lavoro e 2 milioni e 300 mila euro di bonus più 840 mila euro di retribuzione fissa. Ma io sarà tutto, è ovviamente tutto legale, mi chiedo se sia opportuno, non è in dubbio la legalità della cosa, cioè se un gruppo come l'ENI o la Saipem non possa avere altro modo che dare 2 milioni e 300 mila euro a l'ex amministratore delegato che si è dimesso perché indagato su presunte tangenti pagate in Algeria sulla Sonatrach. Non so, chiedo se un trattamento analogo lo avrebbe avuto anche un dipendente dell'ENI di un altro gruppo indagato per motivi magari molto più futili, non so, per ammanchi o per furti in azienda, davano anche lui il bonus, chiedo. Ho poco da chiedere invece su quello che vi stiamo per leggere, perché qui ci spostiamo all'estero e voi sapete la battaglia, a questo punto inutile, che abbiamo compiuto per molti anni dopo lo scoppio della crisi sui pagamenti, i bonus di questi geni della finanza di Wall Street che ci hanno portato a pie pari nella più grossa crisi finanziaria, con assunzione di rischi impropri dal 29 in poi. Ebbene, qui ancora soffriamo. Come ripetiamo ormai da un anno, a Wall Street sono tornati a far festa, non solo sugli utili, ma anche e soprattutto sui compensi dei membri dei consigli di amministrazione. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, è tornata la nostra "ma cos'è questa crisi?". Perché i compensi di Wall Street in generale per gli impiegati, i manager normali, sono stati tagliati e falcidiati dalla crisi. Però, i consiglieri di amministrazione delle grandi banche americane, nonostante i tagli al personale e redditività delle banche sotto pressione, hanno ricevuto aumenti anche del 60%. Lo racconta la New York Times. Praticamente i membri del consiglio di amministrazione di Goldman Sachs, seguiti da quelli di Morgan Stanley, sono i più pagati. Il compenso medio per i consiglieri di Goldman Sachs è stato nel 2011 di $490,000, il 50% in più rispetto al 2008. E ancora, poi è un'occupazione part-time, voglio dire, fare il membro di un consiglio di amministrazione significa che devi andare a sederti nel consiglio di amministrazione ogni volta che viene convocato, non è un vero lavoro, non è che tutti i giorni devi timbrare il cartellino e lavorare 8-9 ore, no? Quando c'è il consiglio di amministrazione vieni convocato, per cui è un lavoro part-time, un lavoro di, potremmo chiamarlo quasi di collaborazione. Ciò nonostante, $500,000 anche perché hanno incarichi extra, senza contare che poi sono destinate ulteriormente a crescere le buste paga nel 2012, visto che le azioni di Goldman Sachs sono aumentate del 35%. Morgan Stanley, i consiglieri sono pagati in media $350,000, una cifra praticamente identica al 2008, quando scoppiò tutto. A Citigroup, anche qui, compensi per i membri del CDA pari a $315,000, il 64% in più rispetto al 2008. Lo stipendio medio al vertice di JP Morgan è pari a $280,000, Bank of America $275,000. E poi, come se non bastasse, Goldman Sachs sta dando vita a una nuova società finanziaria per scommesse rischiose, si chiamerà Goldman Sachs Liberty Harbor Capital, e utilizzerà la leva del debito per amplificare le sue scommesse. Riguarderanno il debito di società americane di medie dimensioni che non hanno rating da colossi della valutazione del credito, quindi sono senza voto. Intende rastrellare $600 milioni attraverso un collocamento di titoli e poi scommettere. Pensate che questo genere di società, le Business Development Company, sono governate da una legge del 1940. E quindi sono una legge leggermente vecchiotta, e lavorano sul rischio, scommettono sul debito di società americane senza rating. Va bene, è tutto legale, mi sembra che non sia cambiato niente rispetto al 2007, ma non è cambiato niente nemmeno nella gestione delle nostre regioni. C'è un caso singolare di una famiglia italiana fermata a Ponte Chiasso dalla Guardia di Finanza a Pasqua, un'utilitaria con target cinesi con 110 kg di oro, per carità. 12 lingotti da 10 kg e 2 da 5 kg per un valore di $4,5 milioni di euro, nascosti nel doppio fondo ricavato sotto i sedili. L'ispezione del veicolo è stata decisa a seguito dei segni di nervosismo mostrati dagli occupanti dell'auto, denunciato a piede libero per riciclaggio. E vabbè, però dicevo, i vizi delle nostre regioni non cambiano, insomma, poi si lamentano dell'antipolitica. Chiedo in regia se abbiamo un tango, una cosa un po'... Vai. Allora, lo dico perché insomma, qui non è più un problema di Rino Gaetano, non te regge più. Allora, Andiamo con la lista? Partiamo con la lista, perché la regione Calabria ci ha regalato oggi una chicca. I consiglieri. 10 consiglieri regionali indagati in Calabria. Io dico, qui non siamo nemmeno a livello di furto, qui siamo a livello di accattonaggio, di barboneria, di... poi si può dire, senza offesa, da pezzenti, cioè, non so... Addirittura si facevano rimborsare i caffè e i gratta e vinci. Però, cose più serie, l'iPhone, l'iPad, l'auto di lusso, il pieno di carburanti, i viaggi all'estero, le bollette della TARSU, le multe per un parcheggio, un divieto di sosta o eccesso di velocità, i caffè da 70 centesimi, il detersivo, le spazzole, i detergenti cristalli, un weekend a Montepulciano, le ricariche telefoniche e anche un bel numero di gratta e vinci. Il detersivo. Ma per pulire cosa? Mi sembra che ne abbiano usato molto poco. Un fiume di fatture ingiustificate per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di euro finito nei bilanci dei gruppi del Consiglio regionale della Calabria fra il 2010 e il 2012. Adesso sta indagando il PM Regino Matteo Centini, che ha appunto iscritto nel registro degli indagati 10 consiglieri regionali calabresi, 8 di centrodestra e 2 di centrosinistra. Riservo sui nomi. Però c'è veramente di tutto, addirittura le tasse da versare all'Agenzia delle Entrate, la ricevuta per un viaggio a Mosca o a Los Angeles o a Monte Carlo. Le gite ovviamente erano tutte spesate, dall'auto, l'affitto, l'auto in affitto, l'albergo, il ristorante, l'aereo, e poi appunto i gratta e vinci, mi fa impazzire. Però non c'è oggi solo la Calabria, qui veramente siamo a un livello di accattonaggio, cioè i gratta e vinci, il detersivo, le spazzole dei tergicristalli. No, perché ci sono cose anche che riguardano anche il nord. In provincia di Rovigo si è scatenata una vera e propria bufera, perché è stato dato un premio di 55.000 euro a ciascuno dei 7 dirigenti della provincia di Rovigo. In tutto 400.000 euro, dovuto per contratto, ma eticamente in una fase di crisi forse non così accettabile. E si è arrabbiato moltissimo il capogruppo della Lega Nord, Antonello Contiero. E tra l'altro nessuno tra questi dirigenti ha pensato di devolvere le centinaia di migliaia di euro in questione a un fondo di sostegno per chi soffre la recessione. Io dico, tagliamo la testa al toro. I 7 dirigenti della provincia di Rovigo prendono questi 55.000 euro, aprono un fondo per i disoccupati, per gli imprenditori in difficoltà a Rovigo, e vedrete che l'antipolitica a Rovigo finisce in un secondo. E anche sulla provincia di Milano. Allora, due bandi della FOL, l'Agenzia per la Formazione della Provincia di Milano, per arredare le classi e gli uffici. Cioè, tutto questo mentre la scuola pubblica, dalla scuola dell'infanzia così, non ha la carta, non ha la carta igienica, non ha le penne. Qualunque padre sa che gli viene chiesto costantemente di portare carta igienica, penne e foglie A4, va bene? Beh, ciò nonostante, allora, due bandi della FOL per l'ente per la formazione della provincia di Milano deve arredare delle classi e degli uffici. Il valore 400.000 euro, e su questo c'è un'interrogazione urgente del PD provinciale. Perché? Perché si cercano un armadio largo 10 metri, alto 2,70 m. Voi direte, quanto costerà un armadio largo 10 metri, alto 2,70 m? Non lo so. Se uno va all'IKEA, vado a memoria, però insomma 2, 3, 4.000 euro a dir tanto. Sapete quanto l'ha pagato la provincia di Milano? 22.000 euro. 22.000 euro per un armadio. Glielo facevamo noi Radio 24? 22.000 euro, subito ve lo facevamo. Questo è il progetto La città delle idee. Capirai che idee, no? Se questo si parte dall'armadio. Perché nel luglio del 2012 hanno fatto due bandi separati per questo progetto La città delle idee, base d'asta di 200.000 euro e 198.000 euro l'altro, invece che un'unica gara a livello europeo? Beh. Perché i prezzi presentati dall'azienda che ha vinto uno dei due bandi, la ZALF di Treviso, sono superiori e di molto al prezzo finale di catalogo su cui i rivenditori possono effettuare sconti? Cioè, perché gli sconti privati sì, alla provincia no? Perché sono soldi nostri. Una cassettiera da catalogo dell'azienda ZALF di Treviso costa 256 euro. La FOL, cioè la provincia di Milano, l'ha pagata 486 euro. Il tavolo verniciato in metallo costa 800 euro da catalogo. Poi tutti sappiamo che se uno va a fare un ordine si fa anche uno sconto, no? No. Costa 570 euro, scusatemi, la provincia non solo non ha avuto lo sconto, l'ha pagato 803 euro. Allora. a sospettare, eh? Perché? Perché il 50% in più, il 40% in più deve pagare la provincia di Milano per un ordine, immagino anche che non sia un unico tavolo o un'unica cassettiera. Ah, saperlo. Io ai consiglieri calabresi però un quinto potere, Dai, poco non lo sentiamo. Quinto Voglio potere. Che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Vabbè, chi non è buono per il re non è buono per la regina, si dice in Inghilterra, ma la regina ha ottenuto oggi un aumento di 5 milioni in più di euro dai contribuenti, però insomma, da 31 milioni di sterline a 36 milioni di sterline, però insomma, questo è tutto legale, è tutto trasparente. Sulle spese dei consiglieri calabresi, sui premi dei dirigenti della provincia di Rovigo e su quanto ha pagato la provincia di Milano, i banchi, l'armadio largo 10 metri, se volete anche proporre la provincia di Milano armadi larghi 10 metri, altri alti 2,70 m, che costino meno di 22 mila euro, accettiamo, facciamo tipo focus economia eBay oggi. Mamma mia. Non sto ipotizzando che i prezzi siano così alti perché uno si è messo d'accordo con Mazzetti, non mi permetterei mai di ipotizzare che uno paga un armadio il 40% in più formalmente perché sotto ci sono Mazzetti, ma figurate, insomma. Non mi passa neanche per il cervello. Semplicemente non sanno fare, non sanno contrattare, mettiamola così. Allora, la borsa ha chiuso con un calo del 2,30%, Parigi meno 1,20, Francoforte meno 0,80, Londra meno 1,1%. Anche di questo parleremo. ...17:38, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti scrivono, lo dico perché è il tema poi che avremo nella seconda ora del programma, che questi prezzi più alti che si fanno pagare alla provincia, mi riferisco agli armadi, alle sedie, alle cassettiere, quello che raccontavamo prima, potrebbero essere dovuti al fatto che uno sa già che la provincia paga in ritardo e quindi si cautela. A parte il fatto che, insomma, se uno guarda il listino non è che ci siamo proprio dentro, ho capito tutto, cautelarsi rispetto agli interessi che perdi, ma qua siamo al 40-50% in più rispetto al listino. No, nel senso che cos'era il listino? Alla fin fine, invece che 250 euro la cassettiera pagata 480, il tavolo verniciato 570 euro pagato 800 euro, mi sembra un po' tanto. E poi, allora, questo è come mordersi la coda, perché insomma, se tu fai pagare tanto la pubblica amministrazione perché ti paga in ritardo, è chiaro che abbiamo dei costi sempre più alti per la pubblica amministrazione che pagherà sempre più in ritardo. Tagliamo la testa al toro, chiudiamo sta vicenda almeno dei primi 40 miliardi, e però poi la pubblica amministrazione inizia a trattare, se non c'è, e non oso pensare che ci sia dell'altro sotto, no? Sotto banco, ma se no va a trattare e si faccia fare degli sconti come tutti i cristiani. C'è un'imprenditrice, una manager, che ci dice che lei con 10.000 euro ha arredato 650 metri quadri di ufficio e di armadi. Qui ne pagano 22.000, io voglio vederlo sto armadio, sarà pazzesco, cioè, tutto laminato in oro, platino sulle giunture, la domotica, ho tutto per arredare le classi e gli uffici dell'Agenzia della Formazione della Provincia di Milano, la città delle idee. La città delle idee, sì, sono sempre le solite idee. McDonald's, allora alcuni dicono: ma in questo modo si fa pubblicità in maniera indiretta? Non lo so, può essere che si faccia pubblicità a costo zero, però ha tagliato dopo 10 anni il prezzo dell'hamburger, e quindi va in deflazione, se vogliamo usarla così, da 1,90 euro, al di là di come uno la pensi sugli hamburger di McDonald's e su McDonald's to Cure. Marco Ferrero, il direttore marketing, è stato raggiunto dalla nostra Maria Luisa Pezzali, tra l'altro ha confermato, come già fece l'amministratore delegato di McDonald's, il piano di assunzioni, 3.000 assunzioni iniziato a inizio anno. Abbiamo deciso di fare questo spostamento verso il basso per venire ancora di più incontro ai nostri consumatori, soprattutto alle fasce più deboli dei nostri consumatori. L'hamburger è molto consumata dai ragazzini e dai, chiamiamoli, meno abbienti, e crediamo che in questo momento ci sia bisogno anche di un contributo di questo tipo ad un paese in crisi come il nostro e a dei consumatori che non sanno più come tirare a fine mese. È una decisione che riguarda solo il mercato italiano o è in chiave globale? No, assolutamente una decisione locale, quindi italiana, presa coerentemente con la nostra strategia, mantenimento assoluto della qualità, dei requisiti, dei parametri quanti qualitativi, quindi non è cambiato nulla nella ricetta. Il fatto che noi abbassiamo il prezzo dell'hamburger non vuol dire che abbassiamo il prezzo di tutti i prodotti, dobbiamo ovviamente stare dietro all'inflazione. Ci sono alcuni prodotti più ricchi che si orientano ad una fascia che si può permettere la spesa di qualche euro di più, che evidentemente devono star dietro appunto all'aumento del costo delle materie prime, ma sappiamo che noi siamo anche in qualche modo, tra virgolette, un bene rifugio per quelli che possono di meno, e quindi abbiamo deciso di aprire un po' la forchetta tra il prodotto entry level come l'hamburger e quelli che invece sono più farciti, più ricchi, più quantitativamente e qualitativamente anche costosi. Perché questa vostra decisione ha aperto un dibattito sulla possibilità a questo punto della revisione del famoso indice Big Mac, che dovrebbe sussistere a parità di tassi di cambio e di potere d'acquisto per i singoli paesi? Ma guardi, questo è un indice che mi permetto di qualificare molto aleatorio, un indice tendenziale, non ci sono dei riferimenti così stretti, tra le altre cose spero di non deludervi, ma vi devo anche anticipare che alcune notizie che sono uscite proprio quest'anno rispetto al prezzo praticato, in particolare in Italia, non erano corrette. È stato pubblicato un prezzo più alto di quello che realmente è il nostro prezzo praticato in Italia, 3,85 contro i 3,65 reali nostri. Quindi è un indice tendenziale che tiene conto di tante cose e che può essere usato a riferimento indicativo, ma non assolutamente puntuale. Nel caso dell'hamburger assolutamente no, non diventerà l'hamburger index. Tanti paesi vendono l'hamburger a un euro, altri lo vendono a un dollaro, altri lo vendono a un euro e 20 o a un euro e 50. Noi abbiamo deciso in modo non permanente, quindi per un periodo che decideremo quanto dovrà essere lungo, anche in funzione della durata di questa contingenza economica, di portarla a 90 centesimi. Non è assolutamente da prendere a riferimento per quello che riguarda né il potere d'acquisto del paese né i costi sottostanti. Purtroppo il costo del lavoro continua ad aumentare esponenzialmente, il costo della carne in particolare anche. Ciononostante abbiamo deciso, proprio dal punto di vista commerciale, di abbassare il prezzo del prodotto entry level per dare beneficio, come ripeto, a tutti coloro che ormai non sanno più a che santo votarsi per tirar sera. Allora, a parte il fatto che l'iniziativa comunque ha un suo valore oltre che economico anche simbolico, se per 10 anni McDonald's non tocca il prezzo dell'hamburger base, quello da un euro, e lo fa scendere a 90 centesimi, vuol dire che si rende conto che proprio in quelle fasce lì, ora, di solito chi compra quell'hamburger è uno che ha una particolare passione, è uno che vuole spendere poco in generale. Dopodiché alcuni di voi segnalano che sono aumentati i prezzi degli altri tipi di hamburger, quindi non voglio fare pubblicità a McDonald's, andremo a verificare le patatine, però diciamo, posso fare una battuta, tra i consiglieri della provincia di Rovigo che si beccano 55.000 euro di bonus, non si capisce per quale motivo, e che nemmeno pensano di così darli, devolverli alla cittadinanza, e McDonald's, vabbè, è un segnale forse più interessante quello di McDonald's. Non me ne frega nulla se facciano bene o male alla salute, non è essere benessere questo programma, si occupa di economia, mica è obbligato uno col massimo rispetto per Nicoletta Carbone, però mi manca solo introdurre anche la salute. Vabbè, la borsa invece oggi poco in salute, perché alla fine la chiusura è meno 2,28% per Milano, meno 1,30% per Parigi, meno 0,90% Francoforte, meno 1% Londra, e allora borsa si è. Penalizzati oggi soprattutto i bancari, il Banco Popolare perde il 5,50% come la Popolare Emilia Romagna, ma anche Telecom Italia meno 5,40%. E qui c'è una vicenda che pesa a livello internazionale, ne parliamo come sempre con Radio Corri sulle 24 ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da Telecom. Sì, per quanto riguarda Telecom Italia, in mattinata prima dell'apertura dei mercati è arrivata la smentita di Verizon, che ha negato di avere allo studio né da sola né insieme ad altri partner un'OPA sulla britannica Vodafone. Ieri l'indiscrezione che è circolata sui mercati, pubblicata da un blog del Financial Times, aveva sostenuto tutto il settore DLC proprio sulla speranza di un risico dei gruppi europei. Si parlava di un'offerta congiunta tra Verizon e AT&T. E la smentita di oggi ovviamente ha spento subito la speculazione, infatti oggi il sottoindice di settore ha perso il 2,07% e Telecom Italia ha fatto anche decisamente peggio, perdendo il 5,38%. Beh, insomma, il fatto che abbia appunto smentito l'interesse per Vodafone così raffredda tutti gli entusiasmi di chi poteva pensare a un nuovo risico nelle telecomunicazioni, no? Certo, anche perché si parlava anche di Telecom per possibili strategie aggregative in Italia o all'estero, anche questo veramente è una notizia che congela un po' le aspettative. Senti Paolo, dopo il traffico invece vorrei sapere che cosa pesa sulle banche, si fa per dire, immagino incertezza e stallo politico, e poi Mediolanum scende, c'è una richiesta molto pesante del fisco italiano su Mediolanum. Dopo il traffico, oggi però, soprattutto per gli amanti di Bruce Chatwin, tra cui il sottoscritto, debuttava in borsa Moleskine, quelle agendine che Bruce Chatwin utilizzava per scrivere, uno scrittore morto, uno dei più grandi viaggiatori di questo secolo, il secolo scorso, dire il vero, quotata in borsa, e vorrei sapere anche come è andato il debutto di Moleskine, che è partita bene e poi forse ha girato in negativo. Devo dare una risposta però a un ascoltatore che dice: sì, però chiarisca che c'è una bella differenza tra i premi dati ai dirigenti della provincia di Rovigo e ai consiglieri, sono due categorie ben diverse. Ho capito, però scusatemi, la pubblica amministrazione non riesce a pagare, facciamola molto semplice, non riesce a pagare i privati, 90 miliardi. Siamo qui a piangere di Tares, IMU, IVA e quant'altro. Il paese è in difficoltà, si chiede di stringere la cinghia a tutti. Vi sembra normale che un dirigente della provincia debba beccare 55 mila euro di bonus? Che cosa ha fatto la provincia di Rovigo e i suoi dirigenti per avere questo bonus in questo periodo? Questo voglio sapere. Ma non dovevamo abolirle queste cavolo di province, no? Ok, giustifichiamo pure queste, va buono. Paolo Paronetto, animo e forza e coraggio, perché adesso parliamo di banche e di Mediolanum. Banche, come dicevi tu, non c'è nulla di particolarmente nuovo, l'incertezza generale soprattutto in Italia ha pesato molto, poi gli investitori dopo le rialze di ieri sono passati oggi già all'incasso in attesa delle decisioni e soprattutto delle dichiarazioni delle banche centrali domani, in attesa soprattutto la BCE e la Banca d'Inghilterra, da cui si attendono ovviamente indicazioni su quale sarà la politica monetaria in Europa e in Gran Bretagna. Quindi oggi sono passati tutti all'incasso e le banche, come al solito, hanno sentito più delle altre di questo fatto e dell'incertezza generale. Allora, ancora Fiat oggi non si era comportata male, poi ha ceduto lo 0,90%. Invece Mediolanum, l'impatto dell'inchiesta del fisco? Beh, diciamo che il Mediolanum ha chiuso perfettamente in linea con l'indice, meno 2,29 su meno 2,28, e oggi appunto aveva iniziato in calo sulla richiesta del fisco di 344 milioni, poi sono iniziati a uscire dei commenti da parte degli analisti di mercato che sottolineano che probabilmente non ci saranno grandi impatti sul conto economico della società, anche perché è molto improbabile che Mediolanum debba alla fine davvero pagare tutta la cifra chiesta dal fisco, e probabilmente e ci si accorderà su un importo decisamente più limitato. Quindi diciamo che Mediolanum non ha sentito molto della notizia e appunto ha chiuso in linea col mercato. Allora, Moleskine da un lato e Arena, oggi ho visto sedere molto il titolo, più 5,13%. Moleskine, appunto, come dicevi tu, è partita bene, arrivando a guadagnare anche il 3% e poi ha chiuso in lieve calo, facendo comunque meglio del listino, con un meno 0,87%, ha esordito sul segmento Star, che è quello delle società ad alti requisiti di borsa italiana. E per quanto riguarda invece Arena, è stato uno dei migliori dell'intero listino, guadagnando appunto il 5,13% sulla notizia che è stata ammessa al concordato preventivo una sua controllata, che appunto aveva fatto richiesta in tal senso, e quindi diciamo che questo è un passo avanti sulla procedura di ristrutturazione del gruppo Arena. Per quello che riguarda i migliori e peggiori, peggiori in assoluto è Banca Carige meno 6,20%, Seat Pagine Gialle meno 5,90%, Banco Popolare meno 5,50, bene, Valsoia più 7,20, Dimel Group più 7,40%. Grazie a Paolo Paronetto. E mentre appunto abbiamo raccontato delle spese non solo folli e pazze, miserabili, dal detersivo al tergicristallo al gratta e vinci di 10 consiglieri calabresi della Regione Calabria messi sotto inchiesta, di quanto spende la provincia di Milano per un armadio, 22.000 euro, che serve, un armadio che serve per che cosa? Per una stanza dove si fanno dei corsi di formazione, e dei bonus dei dirigenti della provincia di Rovigo. C'è un'altra realtà in cui oggi si è recata la nostra Raffaella Calandra, visto che si avvicina il quarto anniversario del terremoto che alle 3.32 di mattina del 6 aprile 2009 ha distrutto L'Aquila, è una parte importante dell'Abruzzo, ahimè. Ricorderete 309 vittime, 1.500 feriti e circa 10 miliardi di danni. Allora, il piano di ricostruzione dell'Aquila ha quasi 4 anni per lo più fermo. Quello che è stato fatto, 60-90 i giorni serviti per far rientrare nelle proprie abitazioni le 20.000 persone per le cui, che hanno avuto la casa agibile comunque dopo il sisma. Il vero problema resta il centro storico e delle case e, come si chiama in gergo, sono pervenuti solo 1.931 progetti con una richiesta di 1,5 miliardi di euro. Perché tutto il comune venga ricostruito definitivamente servono ancora 7 miliardi, 6 miliardi solo per la città dell'Aquila. C'è una delibera del CIPE del 21 dicembre 2012 e un cronoprogramma approvato dal Consiglio Comunale dell'Aquila il 28 marzo scorso. Il CIPE stanzia 2 miliardi e 3 tra 2013 e 2015 e per il 2013, per quest'anno, sono 660 milioni di euro per l'Aquila e complessiva di cui 300 per il centro storico. Il Consiglio Comunale ha stanziato 500 milioni nel 2013, ma ne erogherà quest'anno solo 54. La nostra Raffaella Calandra è appunto oggi andata all'Aquila. Raffaella, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a te e al nostro ascoltatore. Che cosa hai trovato e soprattutto parlando con gli amministratori, con i dirigenti locali, a che punto è questa ricostruzione? Perché le cifre non tornano. Ma le cifre, allora, innanzitutto alle cifre che tu hai dato, che sono appunto quelle dell'amministrazione, quelle delle spese fin qui fatte, io aggiungerei una che dà l'idea dello stato dell'Aquila, che sono le 23.000 persone che sono ancora lontane dalla loro casa, fuori casa, in varie sistemazioni che sono il progetto case, quelle che qui all'Aquila tutti chiamano le case di Berlusconi, perché appunto per tutta l'operazione che ci fu subito con l'emergenza del terremoto, oppure assistite perché sono in affitto e quindi ricevono ancora finanziamenti pubblici dello Stato per sostenere le spese dell'affitto, oppure sono nei moduli provvisori, insomma in varie sistemazioni ma non nella propria abitazione. E un'altra, se vogliamo, immagine dello stato dell'Aquila, della non ricostruzione dell'Aquila a 4 anni del terremoto, lo dice, credo, più di qualsiasi altra cosa il silenzio totale del suo centro storico, dove si cammina quasi in un tunnel unico di puntellature e tubi che spesso sfociano in strade che sono ancora del tutto chiuse per il rischio crolli. Un silenzio spettrale che ora è rotto soltanto dai rumori dei primi pochissimi cantieri, che sono una quindicina per circa 90 alloggi appena partiti, e appena partiti anche grazie ad un escamotage, ad una sorta di forzatura delle norme, come nella stessa amministrazione ammette, perché sono partiti facendo avere il via libera dalla sovrintendenza ai beni culturali, perché si tratta di case che hanno un vincolo artistico, data la loro importanza storica, e questo ha accelerato la trafila burocratica che per 4 anni invece ha tenuto del tutto fermo, e questo va detto e ribadito, l'intera ricostruzione del centro storico, che non vuol dire soltanto tenere lontane dalle proprie case moltissime persone, ma vuol dire anche negozi chiusi, professionisti tanti che ci hanno raccontato in tanti, stanno lasciando l'Aquila, un numero sempre più forte di persone che ormai trasferiti altrove non hanno intenzione di ritornare nella città perché la città non sembra partire, con delle ricadute a catena inevitabili anche sulla già non florida economia della città e di tutta quanta la zona. In questo momento questa è una delle preoccupazioni più forti, non solo della amministrazione ma della popolazione tutta, cioè il fatto che i tempi così lunghi e senza una effettiva prospettiva di ricostruzione abbiano delle ricadute sulla città che diventi una sola città anziani di fatto. Vabbè, questo poi è il lato sociale ma non meno importante, cioè più tardi rientrano gli abitanti più si perderà poi il tessuto del centro storico dell'Aquila stesso. Raffaella Calandra, grazie per questo racconto. Abbiamo anticipato appunto l'anniversario tragico del terremoto dell'Aquila perché ci interessava vedere appunto a che punto è la ricostruzione e abbiamo visto che c'è ancora molto da fare. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e come promesso ci occupiamo del tema, perlomeno sul fronte italiano, del giorno. È ancora il tema del rimborso dei debiti che la pubblica amministrazione ha contratto nei confronti di decine di migliaia di imprese e appunto già ricordavamo in apertura del programma le dichiarazioni del sottosegretario Polillo e del presidente Confindustria Squinzi, che appunto è tornato a dire attenzione, le imprese stanno soffrendo. Faccio notare che sono 90 miliardi l'arretrato complessivo certificato dalla Banca d'Italia, buona parte nella spesa sanitaria, vabbè. Però su questo mi sembra che si brancoli nel buio, no. Insomma, lo slittamento del CDM non è stato il massimo. Però prima di parlare, diciamo, della nota politica, vorrei affrontare questo tema, diciamo, in una prospettiva leggermente diversa. E allora dicevo, usiamo un esempio concreto. È chiaro che è impossibile raccontare tutte le storie di migliaia di imprenditori che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Un po' per dirla a Tolstoi, ogni storia è infelice a modo suo in questa vicenda. Però ci sono dei tratti emblematici. Sappiamo che per esempio il 70% almeno di questi crediti sono generati da servizi o beni o lavori offerti alle ASL, alla struttura sanitaria del paese. Ed è questo il caso per esempio del gruppo Metode, un gruppo salernitano, riunisce 7 aziende nel settore dell'information e communication technology, fanno software e infrastrutture tecnologiche come cablaggi, videosorveglianza per ospedali, tribunali, per i comuni, fattura 26 milioni di euro e ha 312 dipendenti. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo Metode, Aniello Russo, buonasera. Buonasera. Voi su 26 milioni di fatturato quanti crediti vantate verso la pubblica amministrazione? Guardi, tra crediti derivanti da forniture, più abbiamo anche dei progetti di ricerca in corso, eccetera, sono circa 5 milioni. 5 milioni su 26 milioni di fatturato, cioè siamo al 20% del fatturato. Grosso modo sì. E che scadenze hanno? Cioè sono crediti da 3 mesi, 6 mesi, un anno? Diciamo quelle verso le ASL, che non sono ovviamente tutti i 5 milioni, sono anche derivanti da qualche anno. Qualche anno? Sì, un paio d'anni, con delle vicissitudini. Il caso relativamente alla Napoli 1, emblematico, parte praticamente nel 2008. La ASL Napoli 1, immagino. Sì. Mm-hmm. Quindi abbiamo fatturato un servizio con una fatturazione mensile, mai incassato una fattura fino all'epilogo finale, quindi dopo aver fatto pignoramenti, aver fatto tutta quella che è la prassi per recuperare un credito, quando nel 2010 abbiamo praticamente interrotto il servizio, l'ultima è stata praticamente molto particolare perché ci è stato addirittura chiesto di fare uno sconto perché bisognava giustificare il perché pagavano noi e non altri. No, mi faccia capire, perché qua io Allora, voi avete erogato dei servizi alla ASL Napoli 1. Che tipo di servizi, nel senso? Era un servizio informatico per la gestione della protesica e riabilitazione ausili, un servizio software. Era per noi un prodotto anche sperimentale, quindi l'abbiamo fatto rimettendoci molti soldi, perché per noi era il primo prototipo che mettevamo in uso. Quindi abbiamo dato un supporto con delle risorse e quindi avevamo una fatturazione mensile di 3.000 euro mensili. Immagina già due persone 3.000 euro mensili, le faccio immaginare quanto l'azienda abbia investito. Allora, cioè, voglio dire, coprivano i vostri costi, diciamo, questi 3.000 euro per due persone che voi davate all'ASL? No, c'era anche il nostro investimento, non era solo copertura di costi, c'era anche un investimento perché immaginavamo che quel software potesse essere poi replicato in altre realtà. Però visto come la cosa è proceduta, a un certo punto abbiamo stoppato il servizio dopo due anni senza aver mai incassato un euro. Cioè, noi non abbiamo mai incassato un euro da questo servizio. E nell'interrompere il servizio ovviamente abbiamo provato a recuperare il nostro credito, è stato un calvario perché abbiamo cominciato anche con legali, abbiamo cominciato a fare decreti ingiuntivi. Ma mi scusi, ma quando la ASL di Napoli, voi avevate fatto questo servizio, avevate messo a disposizione due dipendenti, chiedevate 3.000 euro al mese, che chiaramente non coprivano né l'investimento né i dipendenti, ma quando voi avete chiesto di essere pagati, che cosa vi ha risposto la ASL Napoli 1? No, è che bisognava attendere, perché bisognava che arrivassero i fondi. Poi c'è stato il commissariamento, a un certo punto tutto si è spersonalizzato perché non avevi più un interlocutore, sono cambiati 3-4 interlocutori, poi c'è stato il commissariamento, insomma è stato finché non ce l'abbiamo fatto più, e quindi abbiamo proceduto per le vie legali. E quanto vi è costato di avvocati, per curiosità? Circa 18.000 euro. Però. E poi hanno voluto anche uno sconto nel finale. Di quanto lo sconto, mi scusi? No, lo sconto non è stato altissimo, è stato di 2-3.000 euro, di 105. No, ma è la giustificazione che non ho capito. Perché lo sconto? Perché bisognava dare una giustificazione del perché pagavano noi e non altri. Ah, cioè uno sconto perché almeno venivate pagati. Questo è virgolettato, a detta del dirigente. Bisognava darsi una motivazione del perché poi ci favorivano nel pagarci. Cioè, pagare uno dopo anni è un favore in questo paese? Assolutamente sì, ma rinunciando ovviamente ad interessi, tutte le spese legali e tutto il resto, perché l'alternativa sarebbe stata una macchina infernale che si sono inventati, che è la Soresa, che è una società regionale per la gestione del credito della sanità, che poi ci avrebbe pagato in tempi molto ancora più dilazionati, e quindi abbiamo fatto la scelta, soffrendo, di accettare questa. Senta, e sugli altri 5 milioni di euro che invece lei vanta nei confronti della pubblica amministrazione, non solo le ASL, dico, è più ottimista? No, o come pensa? Assolutamente no, perché c'è un'altra cosa che se mi dà la possibilità, certo, di denunciare, che è tutto quello che è stato creato per quanto riguarda la certificazione antimafia, perché non so se tutti gli ascoltatori sanno, ma un'azienda per certi tipi di pagamenti ha bisogno di farsi certificare che non è azienda mafiosa. E da quel momento in poi, se chi deve ricevere questa certificazione, come nel nostro caso ci sono alcune delle aziende del gruppo, sono dei consorzi, e lì è finita, perché in un consorzio che partecipano 8-9 aziende, capisce bene che mentre certificano una, l'altra cambia l'amministratore o cambia un sindaco e si riparte da capo. Io ho dei consorzi dove la certificazione antimafia è in corso da oltre un anno e non riusciamo ad ottenerla. Senta, però mi scusi, ma lei quando vince o fornisce un servizio, una gara, vince una gara o fornisce un servizio alla pubblica amministrazione, si aspetta già, no, mi interessa. Se avete sviluppato quasi un software contabile, sapete già che vi pagheranno con così tanto ritardo? Cioè, è normale? Allora, è diventato normale negli ultimi tempi, non era così fino a qualche anno fa, nel senso che la precisione non è stata mai un pregio della pubblica amministrazione, però in linea di massima, facendo una valutazione ponderata, si riusciva a capire quando si incassava. Negli ultimi anni non c'è possibilità di saperlo, e soprattutto le banche, non è vero quanto si racconta che le banche poi certificando il credito eccetera, ecco, aiutino l'impresa. Questo mi interessava, lei nel momento in cui va in banca dice io comunque aspetto pagamenti della pubblica amministrazione, sono anche certificati, loro questi 5 milioni glieli dalle parti nostre hanno delle loro liste da cui vedono se quell'amministrazione è un'amministrazione che rispetta gli impegni o meno, e quindi in modo assolutamente arbitrario, diciamo, arbitrario decidono se possono anticipare o non anticipare. Ah, perfino sull'amministrazione pubblica. Sono quasi sempre ritenute però amministrazioni dalle parti nostre amministrazioni non virtuose, quindi difficilmente anticipano. Ma allora per lei perché, chiedono anche gli ascoltatori, accetta di fornire un servizio se sa poi che non verrà pagato, verrà pagato a 2 anni, 3 anni, che le banche non... E questa è una domanda molto complicata, io le rispondo solo in questo modo, da Roma in giù, diciamo, l'azienda che più potrebbe acquistare i nostri servizi è la pubblica amministrazione, quindi ho capito. Lei qua ha un interlocutore, dico quasi obbligato, come cliente. Purtroppo sì. Ma lei pensa di essere particolarmente sfigato? No, mi sento anche fortunato in certe volte, perché fino ad oggi siamo riusciti a resistere, quindi... Cioè, ha suoi colleghi che sono messi peggio? Ci sono molti colleghi che sono messi peggio. Che vuol dire peggio? Peggio significa anche che molti sono stati costretti a chiudere battenti, molti sono stati costretti a cambiare, a cedere, a trovare strade alternative, molti non ci sono più, molti colleghi, molti competitor che una volta c'erano, oggi grazie anche alla pubblica amministrazione, probabilmente non solo, ma grazie anche alla pubblica amministrazione non sono più attivi, non sono più operativi. Sì, tra l'altro in un'area del paese già particolarmente svantaggiata. Agnello Russo, in bocca al lupo. Lei si aspetta di essere pagato a breve? Io, a dire la verità, mi aspetto di essere pagato sempre, ma la complicazione è sempre più alta. Io approfitterei dell'audio per dare anche un consiglio. Io conterei molto, anzi auspicherei, mi piacerebbe molto che diventasse un po' tutto più automatico, e lavorare anche, visto che oggi è di tema, il tema del momento, quello del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, quello di spostare un poco sui crediti d'imposta futuri. Credo che sia una buona cosa. Sì, almeno quello, cioè almeno lo scarichi, diciamo, lo levi, lo togli, sì, lo detrai dalle tasse. Snellisci finanziariamente, ma soprattutto snellisci finanziariamente, esatto, il peso mese a mese di queste aziende, soprattutto quelle che hanno molti dipendenti, che quindi hanno un F24 corposo. Potrebbe essere un buon abbrivio. Beh, voi ne avete parecchi, 312 in tutto, non sono pochi. Sì, sono tanti. Grazie veramente, in bocca al lupo a lei e a tutte le purtroppo decine di migliaia di imprenditori che sono nella sua situazione, perché purtroppo questo è un caso emblematico, ma non certo raro. Grazie, amministratore delegato di Metoda, Agnello Russo. Salve, grazie. Eh sì, è impressionante, ci credo che poi anche oggi, come abbiamo sentito nella prima ora del programma, il presidente di Confindustria Squinzi ha detto, insomma, ci auguriamo che alla fine le ragioni delle imprese vengano riconosciute, le imprese stanno soffrendo disperatamente per mancanza di credito, perché qui la tenaglia è banche che prestano, mettiamola così, sempre meno volentieri, con sempre maggiore difficoltà, hanno anche a che fare con sofferenze e incagli non da poco, e Stato che paga in ritardo. Chi è il vaso di coccio? Beh, mi sembra palese, il vaso di coccio sono gli imprenditori medi e piccoli, come quello che abbiamo appena sentito, perché un imprenditore con 300 dipendenti in Italia inizia già a essere quasi un imprenditore medio e non piccolo. Polillo, il sottosegretario dell'economia, anche questo l'abbiamo ascoltato all'inizio del programma, ha detto non c'è ipotesi di aumento dell'IRPEF per le regioni, però a me sembra di capire che dopo l'entusiasmo iniziale dell'accordo Tajani-Renzi l'Europa non si fidi così tanto del nostro deficit e dice insomma no. Non sospendiamo la procedura finché non capiamo quanto costeranno i rimborsi, 20 miliardi quest'anno, 20 miliardi l'anno prossimo. Scusatemi, non è un bel segnale però che il Consiglio dei Ministri, che prima doveva essere alle 10 di mattina, poi alle 19 di questa sera, per discutere di un unico tema, come rendere pratici, cioè trasformare in concretezza questi rimborsi promessi, sia stato spostato, e vedremo poi a quando. Alberto Orioli, di questo ha scritto anche oggi su Sole 24 Ore, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera. Buonasera a voi. Allora, il segnale politico, perché insomma, sul fronte economico la testimonianza che hai appena ascoltato potrebbe essere un manifesto purtroppo di decine di migliaia di altre testimonianze, con le banche che addirittura in Campania sanno già se tu devi dei soldi alla ASL X non ti fanno credito, se li devi a quella Y perché è più virtuosa allora ti fanno credito, cioè qui siamo alla giungla anche dal punto di vista, così a mio avviso, quasi legale e delle pratiche. Comunque, Alberto... Sì, esattamente così. Come diceva il nostro ascoltatore, il decreto dovrà servire a semplificare le procedure, a rendere possibili le compensazioni tra debiti e crediti che le imprese hanno verso le amministrazioni o che le amministrazioni a vario titolo vantano presso le imprese, e soprattutto a rendere semplice e effettiva e veloce la possibilità di avere in cassa questi soldi. Purtroppo la prima lettura del testo del decreto che è circolato ieri non garantiva questo tipo di risultati. Effettivamente il fatto che ci sia stata una dialettica palese interna al governo, probabilmente tra il ministro Grilli e il ministro Passera... Dialettica vuol dire anche un po' di scontro, Fermiamoci alla dialettica, per adesso non sembrano emergere nuance che possano farci dire che c'è stato uno scontro. Comunque sia, credo che abbiano posizioni diverse da ricomporre all'interno di una dialettica anche fisiologica, ma che speriamo che serva a portare davvero consiglio, nel senso che questo sblocco dei 40 miliardi attesi, che sono meno della metà di quello che effettivamente le amministrazioni dovrebbero alle imprese, ma pur sempre un discreto gruzzolo che dovrebbe arrivare a inondare di liquidità il sistema, sono assolutamente urgenti, solo che appunto il testo del decreto messo a punto ieri prevedeva 10 decreti attuativi, prevedeva un meccanismo di compensazione che diventava un disincentivo da parte degli enti locali a dichiarare quali fossero i creditori, perché bloccava per 5 anni gli investimenti degli enti locali che avessero fatto ricorso al prestito centralizzato per pagare i fornitori, e poi soprattutto reintroduceva questa formula assurda dell'addizionale IRPEF triplicata rispetto a quella che invece doveva entrare in vigore da partire dal 2014, cioè a dire: sì, sblocchiamo i pagamenti per le imprese, ma li paga il cittadino. Questo avrebbe avuto un valore anche politico di annuncio deflagrante, evidentemente il contrario di quello che serve a creare condizioni di fiducia, di rilancio effettivo dell'economia. Sì, poi non si capisce, io sarò anche ingenuo, ma non capisco perché, se l'Europa è d'accordo nel considerare questo deficit che noi creeremmo rimborsando come Stato, come pubblica amministrazione, prestazioni già effettuate, che prima o poi dovremmo pagare, l'Europa ha detto: vabbè, non lo calcoliamo come un deficit così cattivo. Non è la differenza tra quanto spendi e quanto ti entra ogni anno, ma è sono pagamenti che devi fare prima o poi, li contabilizziamo, tra virgolette, come un deficit, non di una cattiva gestione dello Stato. Ecco, io non capisco perché poi sia circolata l'ipotesi di un aumento dell'IRPEF, cioè se l'Italia è autorizzata ad aumentare un po' il deficit perché paga debiti già contratti e non viene contabilizzato per Maastricht in quel modo, non capisco perché si debba arrivare comunque aumentare il prelievo fiscale. È esattamente questa, forse è una delle perplessità più grosse, cioè io credo che abbia fatto premio l'atteggiamento classico della ragioneria sulle modalità di copertura, però, che è sempre piuttosto arcigno e molto ossequiente rispetto all'applicazione anche stupida del patto di stabilità. In effetti l'Europa ci ha detto che possiamo sforare, diciamo così, dello 0,5%, arrivare al 2,9% di deficit, spalmato però su 2 anni. Come dice sempre Tajani, e lo ha dichiarato insieme all'altro commissario Liren, certo, l'80% dei debiti pregressi è già stato contabilizzato ed già fa parte dei deficit. Ecco, questo è importante, cioè come se fosse un'azienda, lo Stato l'80% di questi 90 miliardi l'ha già messi come, tra virgolette, perdite, ma insomma alla voce soldi che devono uscire, per cui non andrebbero a sommarsi al deficit. Ci potresti stare dentro? Oggi Tajani ha detto: siamo su 40 miliardi, non bastano, sono 90 miliardi quelli stimati dalla Banca d'Italia, ma insomma è un primo passo. Perché secondo te tutta questa resistenza politica? Cioè, se l'Europa ti dice uno 0,5 in più lo puoi fare di deficit sul PIL, e poi dall'altra parte, che sono circa praticamente 10 miliardi a spanne, un'altra parte già contabilizzata, quindi non andrebbe a gravare il tuo deficit, l'hai già messo nel deficit negli anni passati, e la resistenza politica qual è? Ma francamente io voglio sperare di poterla leggere in un altro modo. Hanno cercato di prendere altre 48 ore, 3 giorni di tempo per scrivere meglio un decreto che sicuramente avrebbe un impatto epocale che non possono permettersi di bruciare. Cioè, sarebbe un errore, un clamoroso boomerang sbagliare il decreto che sblocca i pagamenti e che non avesse l'effetto sperato. Quindi voglio auspicare che questi 3 giorni servano a scrivere meglio questo testo. Il testo era, ripeto, arcigno nelle modalità di copertura e addirittura disincentivante. Va semplificato. Se possibile bisognerebbe arrivare a un sistema di compensazioni, cioè a dire chi ha un credito rispetto alla pubblica amministrazione ma ha un mancato pagamento di una quota di contributi dovrebbe poterli compensare teoricamente, cosa che oggi non è possibile, anzi se hai un ammanco di contributi sei anche perseguibile penalmente, come peraltro anche è giusto, ma insomma in questa condizione le imprese hanno bisogno di essere agevolate nelle loro entrate e uscite di cassa, soprattutto se l'interlocutore è la pubblica amministrazione. Quindi non c'è tanto scontro politico quanto un tentativo di razionalizzazione e di messa a punto di un decreto che altrimenti non avrebbe sortito lo scopo prefissato. E soprattutto c'è da mettere in squadro, diciamo così, l'atteggiamento tra Stato centrale ed enti locali, perché gli enti locali stanno chiedendo di utilizzare questo provvedimento per allentare definitivamente il patto di stabilità interno, cosa che sarebbe auspicabile per le regioni virtuose, che hanno in cassa 13 miliardi di euro spendibili immediatamente, che tuttora restano nella tesoreria unica in modo improficuo. Quindi tutta questa è una partita complessa che speriamo trovi una. Allora Alberto, io voglio essere positivo perché c'è stata la Pasqua, siamo tornati dalla Pasqua. Allora speriamo che questo slittamento sia dovuto non a una incapacità di venire a un punto di incontro, ma come tu auspicavi, a una voglia di fare un decreto fatto veramente bene, che non abbia passi falsi, che non abbia zone d'ombra e buchi. Io mi auguro che sia così, perché adesso staremo a vedere quando vi sarà il prossimo Consiglio dei Ministri. Grazie intanto Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora scrivetelo bene, fatelo bene, non rifacciamo cose che abbiamo visto per esempio sul decreto pensioni con gli esodati. Prendetevi un giorno in più, 2 giorni in più e poi fateci sapere come intendete rimborsare veramente, non con la prima versione di Passera di un anno fa che abbiamo visto ha ottenuto effetti risibili, le imprese che vantano in tutto 90 miliardi di euro di crediti dallo Stato. Per me il credito d'imposta resta la forma più civile, scusami, dice lo Stato, sono in ritardo, almeno ti sconto le tasse per i prossimi anni. Sarebbe la risposta da paese civile, Massimo. Sarebbe la risposta da paese civile. Da Sebastiano Barisoni comunque l'auguro di una buona serata. Noi ci sentiamo domani con Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.